Matteo, capitolo secondo. Or essendo Gesù nato in Betlehem di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Ed essi gli dissero: «In Betlehem di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlehem, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparita, e mandandoli a Betlehem disse loro: «Andate e domandate diligentemente del fanciullino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo». Essi, dunque, udito il re, partirono. Ed ecco la stella che avevano veduto in Oriente andava dinanzi a loro, finché giunta al luogo dov'era il fanciullino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza, ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono, ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per altra via tornarono al loro paese. Partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto e sta quivi finché io non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire». Egli dunque, levatosi, prese di notte il fanciullino e sua madre e si ritirò in Egitto, ed ivi stette fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai il mio figliuolo». Allora Erode, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlehem, in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi. Allora si adempie quello che fu detto per bocca del profeta Geremia: «Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figliuoli e ricusa d'esser consolata, perché non son più». Ma dopo che Erode fu morto, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e vattene nel paese di Israele, perché son morti coloro che cercavano la vita del fanciullino». Ed egli levatosi prese il fanciullino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao invece d'Erode suo padre, temette d'andare colà. Ed essendo stato divinamente avvertito in sogno, si ritirò nelle parti della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazaret, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe chiamato Nazareo.